Italia in controluce, la politica nel tunnel. Italia in controluce, buongiorno da Montecitorio, da Vincenzo Miglietta. E buongiorno da Elisabetta Fiorito, Parlamento in seduta comune qui a Montecitorio per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. 1.007 grandi elettori sono chiamati a scegliere il successore di Giorgio Napolitano. Partito Democratico e Popolo delle Libertà hanno scelto, per loro l'uomo giusto è Franco Marini, ma un Partito Democratico molto spaccato. Alla larga convergenza hanno aderito Scelta Civica, a sorpresa la Lega Nord. Ricordiamo quindi che nel PD c'è spaccatura, non stanno votando Marini e i renziani, ma il dissenso all'interno del partito è anche più ampio. Si sono chiamati fuori i parlamentari di Vendola che stanno votando insieme al Movimento 5 Stelle. Stefano Rodotà, Vincenzo. Sì, allora Elisabetta, possiamo far sentire brevemente l'aula e lo spoglio nelle parole del presidente Boldrini. Rodotà. Marini. Rodotà, Bianca, Franco Marini. Ecco, siamo Rodotà. In questo momento a circa 300 Franco. Voti scrutinati, Franco. Marini è nettamente in Franco. Vantaggio. Allora, ai nostri ascoltatori, Elisabetta, al 349-238-6666 chiediamo: Marini ce la può fare al primo voto? È l'uomo giusto per riunire le tante forze politiche presenti in Parlamento o la sua elezione lascerà delle macerie, soprattutto a sinistra? E quanto chiediamo ai nostri ascoltatori? 349 2386666. Ecco, le operazioni di spoglio stanno procedendo molto spedite qui a Montecitorio. Sullo scranno della Presidenza c'è sia Laura Boldrini sia Piero Grasso. Torniamo poi alle posizioni delle forze politiche. Sotto accusa ai vertici del Partito Democratico per aver scelto Franco Marini, un nome questo frutto dell'intesa con Berlusconi. E ricordiamo che poi poco fa è stato fotografato anche Pierluigi Bersani con il braccio sulla spalla di Angelino Alfano. Ma l'ex ministro Cesare Damiano smentisce, dice non c'è nessun governissimo, sentiamo. No, noi non facciamo nessun suicidio, è una scelta per il paese. Io ribadisco un concetto, che scegliere Marini vuol dire scegliere una persona per bene della politica, trasparente, onesta, sobria, una persona che come il sottoscritto arriva dal mondo del lavoro. Vorrei però precisare un punto. Non sottovaluto il fatto che ci sia non solo una contrapposizione interna al partito, non c'è soltanto una protesta nella rete, i nostri militanti, una parte del nostro popolo non condivide questa scelta, quindi questo va riconosciuto. Vorrei che fosse chiaro che questa scelta di condivisione, perché stiamo parlando di un Presidente della Repubblica, garante della nazione, non ha niente a che vedere con un futuro governissimo verso il quale io ho una netta, intransigente opposizione. Noi non faremo nessun governissimo e questo non è l'anticamera del governissimo con Berlusconi. E queste dunque le parole di Damiano che difendono la scelta del PD di aver scelto quindi Franco Marini. Abbiamo già i primi SMS, non capisco le scelte di Bersani, prima si fa umiliare in streaming, poi quando i grillini propongono un buon candidato sceglie un mediocre per compiacere Berlusconi, scrive Cristina, ho sempre votato PD nonostante Bersani e compagni, ora spero nelle dimissioni di questi incapaci, scrive Paolo da Modena. A chiudere intanto la porta a Marini sin dalla prima ora è Renzi, nulla sulla persona di Marini, ha detto il sindaco di Firenze, ma non è l'uomo adatto per guidare il paese, posizione questa ribadita qui a Montecitorio dalla deputata renziana Simona Bonafè. Ascoltiamo. L'avevamo detto fin dall'inizio che sul nome di Marini non ci saremmo trovati per tutta una serie di caratteristiche che non sto qua a ridire. Quindi noi con grande trasparenza non faremo i franchi tiratori, l'abbiamo detto molto, in maniera molto chiara, non voteremo Franco Marini. Ecco, il dissenso nel PD va al di là però della vostra componente, leggendo un po' i numeri addirittura sembra che ci siano più di 100 deputati che voteranno no a Marini. Il voto di oggi avrà sicuramente delle conseguenze anche sulla segreteria e sulla leadership del partito stesso. Beh, ieri all'Assemblea d'Italia Bene Comune sono stati molti a dissentire su questa linea, sulla linea Marini. Vediamo che cosa succederà oggi in aula, io non farei pronostici, d'altra parte le dico che appunto per quanto ci riguarda noi l'avevamo detto con molta coerenza e saremo coerenti fino in fondo, dopodiché vediamo cosa succede. E questa era Simona Bonaferri, anziana del PD, ma intanto i vostri sms al 349-238-6666 arrivano copiosi e qualcuno dice: come Maria, se viene eletto Marini dopo 40 anni non voterò più PD, ce la può fare ma sarebbe una pessima scelta, il PD l'ha portato al suicidio, l'elezione di Marini è una ferita insanabile. Ecco, sentiamo la base del PD che è veramente contraria a questa scelta del segretario Pierluigi Bersani, non Marini, addirittura vive il Movimento 5 Stelle che ha spaccato il Partito Democratico. Tutto invece abbastanza scontato nelle altre forze politiche, gongola è ovviamente il Movimento 5 Stelle che sta votando Stefano Rodotà, ricordiamo ex uomo PD, e gongola insieme, non gongola ma insieme a Sel che ha deciso di votare Rodotà, invece il Popolo della Libertà compatto nel voto a Franco Marini, è una persona super partes, e anche il sì di Scelta Civica, un sì però un pochino più sofferto, ma a sorpresa poi c'è stato anche il sì della Lega questa mattina che doveva votare un loro rappresentante Emanuela Del Lago, una donna. Invece a un certo punto Bossi ha detto: Marini è un uomo del popolo, e ce l'ha confermato anche Roberto Maroni, sentiamo. La Lega ha già votato, tranne i delegati regionali che votano adesso, ha già votato Marini. Aspettiamo i risultati. Ma l'avete votato perché così il PD si spacca meglio? Ma figurarsi, giammai. Condivido le cose che ha detto Umberto Bossi, tratteggiando il profilo di Marini. Ha detto delle cose condivisibili, quindi rimando alle sue valutazioni. Cioè che è un esperto di lavoro in questo momento in cui lavora? È del popolo, è un esperto di lavoro e oggi l'emergenza numero uno è il lavoro e quindi... E questa mattina ha parlato anche Grillo in uno dei suoi tanti comizi: c'è da scegliere tra il presidente degli italiani che è Rodotà, dice Grillo, e il presidente di Berlusconi che è Marini. Si sono chiusi al Caparanica di notte Berlusconi e Bersani, ha detto Grillo, per decidere il destino di 60 milioni di italiani. Questa l'ironia di Grillo. I vostri sms: Bersani si è venduto a Berlusconi, Amalia di Genova non fanno le larghe intese e quindi si andrà al voto con un PD a pezzi, scrive un nostro ascoltatore. Nel frattempo lo spoglio, possiamo tornare a sentire brevemente l'aula. Stefano Rodotà, Bianca Rodotà, Emma Bonino Rodotà, Stefano, Bianca, Sergio Chiamparino, Giorgio Napolitano. Ecco. Sergio Chiamparino. Ecco quella che Franco sentite Marini. L'aula. Ricordiamo Marini, che il quorum per questa votazione Franco. È di 672 Franco voti. Marini. Attualmente Franco Marini ha ricevuto 296 Franco voti, Rodotà. Stefano Rodotà 129, Marini. Schede bianche 59. Franco. Abbiamo sentito qualcuno ha votato anche Emma Bonino, tra cui Franco. Il renziano Roberto Giachetti. Franco. E quindi sappiamo benissimo che nel PD è una vera e propria spaccatura. Del resto l'ha detto Franco. Già il sindaco di Firenze. Matteo Renzi, è spaccatura nel PD, bisogna vedere quindi se passa Marini che cosa resterà del Partito Democratico, Vincenzo, sì, a questo Marini punto. Che tra l'altro questa mattina ha parlato, Marini è in questo momento in Abruzzo, lo hanno intercettato i colleghi giornalisti, lui ha mantenuto un basso profilo dicendo non è questo il momento di parlare, ma comunque è sembrato avere la consapevolezza che comunque la sua corsa potrebbe essere in discesa. Leggiamo ancora i vostri ascoltatori, i vostri sms al 349-238-6666, ma qualcuno degli indignati antimarini mi spiega cosa ha fatto di male, scrive Bruna, nel senso che questa nostra ascoltatrice Elisabetta evidentemente difende la scelta del PD nei confronti di Marini. Incredibile possibile che il PD abbia scelto Marini, perderà l'80% dei voti, scrive Roberto, il nostro ascoltatore Roberto. Per quanto riguarda l'aggiornamento dei risultati, Elisabetta, a che punto siamo? Allora, abbiamo 324 voti per Franco Marini, 159 voti per Stefano Rodotà, 27 voti per Sergio Chiamparino. Evidentemente qualcuno del PD vuole dire c'è anche qualche altro nome che si può spendere. 10 per Emma Bonino, 9 per Massimo D'Alema, 8 per Giorgio Napolitano, 6 per Romano Prodi e 2 per Mario Monti. Insomma, è chiaro che però potrebbe Franco Marini non farcela questa prima votazione, e questo potrebbe rimescolare molto le carte nel Partito Democratico. Noi ve lo racconteremo. Un saluto da Elisabetta Fiorito. Un saluto da Vincenzo Migliete e buon proseguimento.